Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:15 minuti primi di questo mercoledì 3 luglio 2013. Continua il nostro live, Maurizio. Dopo il rap passiamo al rock, quello veramente tosto. Buonasera Rodless. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti. Bentornati, sono i ragazzi di Verona e sono venuti a trovarci per il nuovo disco, chiaramente. Yes. Che è stata una rivoluzione vera e propria, secondo me. Il disco si chiama Revolution, ma una rivoluzione, un totale cambiamento nel senso positivo. Siamo andati verso il rock, quello vero tosto. Abbiamo un frontman stasera, un cantante che ha una voce potente, ma ne parleremo dopo. Ci presentiamo, ragazzi. Vabbè, io sono Gianluca, la chitarra ritmica. Io sono Giulio, batteria e percussioni. Io sono Claudio, la voce. Bomber al basso. Loris, l'altra chitarra. Ecco, benissimo, bomber al basso, per fine. È fondamentale bomber al basso. Anche dal punto di vista fisico, giusto? Il bassista deve essere fisicamente a posto. Anche cosa dici, Gilles? Beh, certamente. I bassisti sono sempre fisicamente a posto. Cosa dici? è un po' in castigo. È un po' castigo. A posto non vuol dire integro fisicamente. Giusto tenere le abitudini, mi raccomando. Vai un momento vicino al microfono. Vieni vicino al microfono lì. Giusto mantenere le abitudini. Ah, certo, giusto. Cioè, però, di solito è il batterista che è lontano. Sì. Stasera il batterista è più vicino che non te, chiaramente. Mi sento solo stasera. Ti senti solo. Benissimo. Nuovo progetto, una rivoluzione nel senso positivo del termine. Abbiamo abbandonato certi schemi. La critica ha scritto certi schemi classici per andare al rock sanguigno, il vostro rock. Le vostre intuizioni erano queste o no? Quando ci siamo sentiti per il disco precedente, sì, dopo Whiskey for Breakfast abbiamo fatto un po' il punto della situazione guardando quello che magari era quello che ci rappresentava di più. Mm. E già l'anno scorso quando siamo venuti qui avevamo appena iniziato a registrare il disco nuovo con Sara, la cantante, la cantante vecchia. Poi vabbè, durante le registrazioni abbiamo un po' cambiato line up, sì, abbiamo deciso di spostarci verso un rock più aggressivo, che era quello che comunque stavamo cercando. E dopo 2 anni di corteggiamento al signorino, mica poco, 2 anni di corteggiamento. Sì, no, cioè, ci mi sento come amorosa. Perfetto. Dimmi. E niente, abbiamo trovato lui nel giro veramente di 2 mesi. Abbiamo cominciato preproduzione nuova, abbiamo registrato a Londra. Con Alessio, sì. Gravello, sì, tutta la parte. E del... quello è stato importante, secondo sì, me. Sì, no, è stato un'esperienza fondamentale, vero? Un'esperienza eccezionale, è stato super figo, diciamo, perché per la pronuncia, per il mondo che... Cioè, Londra è un altro mondo, Londra è un altro mondo proprio. E anche per l'ispirazione che si può trovare in una città come quella, perché... Londra c'è di tutto, basta, sì, assolutamente. Basta camminare per le strade. Hai detto una cosa giusta, basta camminare per le strade. Sì, assolutamente. Si respira. Respiri musica. Sì. Respiri musica. Poi Beatles, Docet. Sono innamorato. Anche se sono di Liverpool lo stesso, va bene lo stesso. No, okay. Tutti gli UK. Tutti gli UK, esattamente. E niente, poi vabbè, abbiamo finito di registrare un po' Londra, un po' qui. Abbiamo registrato un pezzo nuovo che non era previsto, causa comunque un pezzo un po' ruffiano, scritto con Sara. No, un po' ruffiano, era un po' più godibile, lei, ecco. Esatto. Era stato scritto apposta per lei. Poi vabbè, l'abbiamo eliminato, abbiamo tirato fuori un'altra bella ballatona. Ed ecco, insomma, grazie a Andrea Martongelli per la produzione artistica, tutto quanto. Anche quello fondamentale, sì, per dare una svolta, assolutamente una svolta alla band. E siete venuti qua, esatto, per presentare dal vivo, assolutamente dal vivo e in diretta 22:19 la vostra nuova proposta. Yes. È una cosa interessante, no? È piaciuta molto. Io ho scelto come titolo di lancio, e salutiamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco. Ciao, che, Alberto. Che vi ha voluto fortissimamente. E salutiamo Gianluca Merlin, un vostro fan. Ciao Gianluca. Dalla prima d'ora. Ciao Gian. che specifica subito una cosa, Gianluca, e dice: ma prima erano venuti da me. È vero, sì. È vero. All'epoca sì, era ciao. Così. Ciao Gianluca. Bene. Siete arrivati per presentare il nuovo album, che ha delle sonorità, abbiamo detto all'inizio, veramente potenti. Già dal singolo veramente potenti. Perché un singolo così potente? Senza mezze misure, caro Nick, visto che sei il cantante, dal frontman. No, infatti, senza mezze misure, soprattutto per il significato che ha il testo della canzone Fake, che, che un non po'... so cosa abbiamo scelto in scaletta adesso, io non lo so. Abbiamo fatto un po' un mix. Fake, un mix. Non arriva subito. Non arriva subito. Forse arriva subito. Abbiamo iniziato con il singolo. Perché il singolo è solito una cosa importante. Rompe, cioè apre la finestra, spacca la finestra. Sì, assolutamente, no, non potevamo certo mettere una ballata o qualcos'altro che comunque fa da contorno per rendere l'album più godibile, no? Certo. Volevamo comunque far vedere, penso, in che direzione stiamo andando, no? Che abbiamo fatto comunque un cambiamento. Non avete mezze misure. No. Dobbiamo ricordare che alle tastiere c'è Veronica Marchi, che è una musicista che abbiamo ospitato più di una volta. Violini, una veronese doc. E ai violini Laura Masotto, anche lei. Un'altra bravissima, dei sì, Mascheri di Cera. Di Clara. E poi gli Home sono stati anche loro parte. Gli Home, un altro gruppo interessante. Sì. No, abbiamo collaborato veramente con delle persone interessanti e grandi amici sicuramente, che ci hanno dato tanto una mano anche a registrare. Quindi... siamo contenti del risultato. Oh, la crema veronese viene fuori, la crema di Verona. Verona è una città importante dal punto di vista musicale. È un gran bel movimento. Si muove in senso positivo. Sì, assolutamente. Sentiamo allora il singolo, così spacchiamo un momento. Via. Okay. Fake. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. C'è molta carica, molta personalità, Maurizio. Ma molta adrenalina, possiamo dire. Nick, vieni davanti al microfono. Eccolo, assolutamente. Eccomi. Una cosa che io non sapevo, me l'hanno detto i ragazzi, il pezzo era già stato scritto. Sei entrato dopo. No, in realtà l'album era L'album era già stato scritto. Sì, sì, sì. L'hai rivoluzionato con la tua voce. Un critico ha scritto che hai una voce simile al leader degli Incubus. Beh, è un grandissimo complimento. Beh, quello è una voce non da poco. Brandon Boykan. Esattamente. Veramente tanto bene. Quindi... l'album era già fatto, tu sei entrato ad album fatto, sì, praticamente. Sì, sì, praticamente è quasi registrato tutto quello che erano i pezzi musicali. Mi hanno detto, Claudio, c'è questo album, vuoi scrivere dei pezzi? Io ho detto sì, assolutamente sì. E dopo 2 anni, perché erano 2 anni che mi chiedevano di cantarne in realtà. Come sua amorosa ha detto, 2 anni di attesa praticamente, per poter recepire la tua voce o il tuo modo di fare musicale. E praticamente mi ha presentato questo progetto che è subito stato molto interessante. Tra l'altro un po' diverso da quello che avevo sempre fatto. Venivo comunque da... Venivi da dove? Da un altro gruppo, dall'hard rock. Ah, dall'hard rock, quello classico. Esatto, sì. Qua non c'è hard rock, anche se qualche momento di hard rock c'è nell'album. Sì. Qualche momento, qualche però schitarrata hard rock. Sì, qualche schitarrata, sì, ma è rock, diciamo, vero e proprio, infatti, non è hard rock. No, diverso. Non è hard rock. Dimmi. Allora. E quindi arrivavo da quel mondo lì e comunque ho deciso di mettermi tra virgolette in gioco, cercando di fare comunque un genere musicale che non sentivo mio al 100%. Però mi sono trovato subito a mio agio, perché le linee musicali sono molto interessanti. È un album che arriva subito, è stato scritto molto molto bene e non ho avuto nessunissima difficoltà a trovare, diciamo, tra virgolette, l'ispirazione per i testi e tutto quanto, quindi è stato piacevole. E quando intoni il primo momento di questo pezzo, scaldi la platea, cioè la fai sollevare praticamente, com'è il discorso? Perché questo è un pezzo proprio di grande impatto, al di là che è un pezzo funky, ma un funky per modo di dire, un funky molto accelerato, molto alla Ferrari, potremmo dire. Sì, è vero, vero. E diciamo che il primo pezzo doveva essere quello un po' di impatto, no? Deve essere quello che deve dare un po', diciamo, il buffetto. Per dire, guarda, stai ascoltando i Roadless, non stai ascoltando qualcos'altro, esatto. Veramente. I Roadless hanno questa fisionomia, adesso. Adesso sì. Adesso sì, sono adesso diverso rispetto al precedente. Sì. Quindi Fake, l'album, avete scelto tutte assieme questo discorso come singolo, eravate tutti d'accordo, sì, compreso sì, te, sì. Assolutamente, anche Bulldozer, sì, lui sì, per forza ha detto, perché il basso è importante in questo pezzo, non sembra, ma il basso, ma vieni avanti. Essendo grosso hanno tutti un po' paura, no? Allora praticamente in fine dei conti ho scelto io. No, è stato scelto insieme, logicamente è una band dove le decisioni vengono prese insieme. Democraticamente. Scherzo, come è giusto che sia, insomma, una band rock così, 5 persone, dove si cerca di dare il massimo tutti e 5, le decisioni vengono prese in 5. Ecco. È Fake, avete deciso tutto, assolutamente, questo era il singolo pezzo che doveva... Ma mi rendo conto, Mauri, che ti sei proprio preso bene per il discorso del frontman. Sì. Lo tieni sempre in ballo. Sì, ma il frontman è essenziale su una band cosa, rock. Piace che su una band rock il frontman è essenziale. È fondamentale. E poi è davanti, rispetto a te che sei un po' indietro. È sempre davanti. Ma in realtà non è così. Non è così. Perché chi viene a vedere i live dove sei messo te? Io sono davanti . E Bomber è di fianco a me. Ah, vedi. Quindi è positivo. Però di fianco a me è microfonato. È microfonato. Dobbiamo dire una cosa, cari ascoltatori. Il bassista, il basso in una band rock è fondamentale, certo. E la linea ritmica dà l'impulso, anche fisicamente sta bene Bulldozer, è questa doppiamente importante, secondo prima... Adesso non pensate tutti quanti bene, cioè, sono comunque 100 kg vero, 100 qualcosa, non è che sono 180 kg. Comunque una roba bella da vedere. Hai sbagliato uno zero, è uno zero in più. Scherzando, ma è importante anche la presenza fisica dal punto di vista del bassista. Okay. Prima dicevi che era un brano un po' funky, Mauri. Sì, un po' funkeggiante, un po' tirato, molto tirato, perché deve avere un impatto giusto. Il singolo deve essere di impatto, deve svegliare, deve aprire un album, secondo me, un album che si parla di rock. Ma anche in ogni caso, deve essere sempre una cosa importante. Ecco, Gianluca, che come fosse qua con noi, dice che lui vorrebbe più definirlo come rock and roll. Può darsi che Gianluca abbia ragione. Cosa dite voi? Io un po' da omonimo lo vedo anche un po' così. Vabbè, in realtà abbiamo scelto Fake come singolo anche per il fatto che comunque dovevamo staccarci nella maniera più veloce possibile rispetto al disco precedente, da quello che era il disco precedente. Quindi vai a rischiare di mettere su, come diceva Caio, una ballatona non era il caso, magari c'è un la ballatone più, cioè, più tardi ce n'è più di una, sì. Ho troppo tirato che magari vai a confondere l'utente finale, quindi abbiamo deciso di fare un pezzo comunque diretto, facile, di primo appiglio. E ma scusa, invece di leggere tutti i messaggi, Gianluca, leggi quello delle ragazze. Quelle dopo, quelle Gianluca, dopo. Hai capito? Non ne vogliono sapere i tuoi messaggi, Gianluca. Adesso se ne fanno proposte. Facciamo un break un secondo e poi ripartiamo. Spot. Estate. Rubriche, musica, notizie e il meteo regionale. Primo piano estate, da lunedì a venerdì, alle 18:15. Primo piano estate. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci in diretta con i The Rodress, con Claudio Nicoletti, Gianluca Aldigheri, Loris Ruffo, Bomber Manuel Stoppele e Giulio Marculongo. Benissimo. E l'ora, adesso è l'ora, 22:31, è l'ora di fare una cosa, di suonare, di cominciare a suonare. Che cosa? La prima che abbiamo scelto per questa sera è un altro dei pezzi che ci piace veramente molto del nostro album, e si intitola A Thing That Set You Free. A Thing That Set You Free. Benissimo, sentiamo. Stop. Free. Blu Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Posso dire che era perfetto. Musicalmente nell'album era un po' diverso, chiaramente non ci sono le schitarrate elettriche, ci sono le chitarre acustiche, ma complimenti, a me è piaciuto molto. Possiamo dire un po' Black Sabbathiano. Addirittura. Secondo qualcosina all'inizio, poi le cose cambiano. In ogni caso, dopo questa me ne vado. Devo dire una cosa, complimenti a Nick che ha giocato con il falsetto, non è semplice giocare con il falsetto in un pezzo simile. Come mai sei riuscito ad andare col falsetto? Vai avanti nel microfono, Nick. A me è piaciuto molto, il falsetto è una cosa che amo particolarmente. Sì. In una band rock, rock potente come la vostra, giocare col falsetto non è facile, è molto difficile. Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro, durante il cammino di registrazione di questo album ho trovato in Alessio Garavello un guru veramente che t'ha istradato, possiamo dire. Ma sì, dire. Sì. No, diciamo che prima di entrare nel Roadless comunque mi occupavo molto di cover e ho studiato molto quelli che erano le Zeppelin. Non ho sbagliato tanto, tutto, insomma. No, assolutamente. Andare su e giù per adesso che Black Sabbath numero 13 in classifica nei primi 10 in Italia. Erano anni che Ozzy Osbourne non andava in classifica. Sì, in è un album niente male. Esattamente. E quindi avevo comunque un'impronta che era leggermente diversa. Adesso ho riuscito ad ottimizzare quello che c'avevo dentro, a farmelo tirar fuori. Insistendo anche un po', veramente mi ha aiutato molto e mi ritengo veramente soddisfatto di come sono andate le registrazioni e come è venuto fuori l'album alla fine. Noi ci riteniamo soddisfatti come avete fatto il pezzo qua dal vivo. Dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, la batteria non c'è, c'erano i tamburelli, una cosa simile, vero? Esattamente, c'è un caon. È un caon che ce l'hai nascosto, esatto, e non lo vediamo, però è là sotto, chiaramente. È simile a una cassetta per le ciliegie, però alla fine suona. Insomma, poi c'è il basso, chiaramente, di Bulldozer. Poi ci sono due chitarre acustiche, ma sembravano due chitarre elettriche, decisamente, hanno proprio ben impostate, irruente nel senso positivo del termine, con tanta grinta, elettriche nel disco, ma acustiche stasera, però, un'acusticità insomma molto legata all'elettricità, molto molto interessante, bella versione secondo me, grazie, notevole, anche questa, dimmi. No, volevo dire che... Vicino al microfono. Scendendo un po' nell'ambito tecnico, anche quando suoniamo cerchiamo comunque di coprire un range di frequenze diverse. Esattamente. No, allora Gianluca quando fa l'accompagnamento prende certe frequenze. Tu hai fatto la solista. Sì, io qua in questo pezzo facevo la chitarra solista e quindi ho frequenze più acute e insomma cerchiamo anche di amalgamarci in questo senso. Poi hai fatto dei giri armonici, delle carrellate armoniche decisamente inusuali, molto bravo, devo fare un complimento. Bravo, bravo. Hai colorato il pezzo. Grazie. Hai colorato solo il uno pezzo. Però. Sì. È quasi l'unico pezzo che ho messo in questo disco. Solo uno. Benissimo. Gile, l'atmosfera si sta scaldando, siamo tutti ben messi. D'altronde sono rock. Sono rock, sì. Esattamente, sono rock. 22:39, tutto in diretta, assolutamente in diretta. Io avevo una curiosità, Maurizio, questo R Linetta Evolution ha un significato sicuramente, no? Certo. Abbiamo giocato un po' con il fatto di rivoluzione ed evoluzione, perché viviamo in un momento storico dove manca solo la rivoluzione, un po' la rivoluzione nostra all'interno della line-up, rivoluzione del genere, l'evoluzione del genere, l'evoluzione nostra, perché comunque continuiamo a crescere sia musicalmente che come persone, quindi abbiamo voluto giocare un po' con questa cosa. Infatti la copertina, c'è una lampadina con all'interno un fossile per far vedere insomma i vari cambiamenti che ci possono essere nella storia, presi proprio in modo... Poi quando è stato il momento di scegliere il nome, era anche il momento del... cos'era? Il 12 settembre... No, la fine del mondo, che parlavano tutti della fine del mondo. 21 dicembre. Allora, 21 dicembre. E che nome diamo? Ho detto, no, questo non è la fine, questo è l'inizio di un nuovo cammino, quindi rivoluzione. Ah, perfetto. Che titolo del disco nuovo, sono praticamente. E chi ha scelto la copertina, l'idea della copertina, che tu hai spiegato adesso, ma l'idea, chi l'ha buttata così? Andrea Bettega, che è quello che ha fatto la grafica del primo disco, il nostro caro amico. Che è un ottimo grafico, il disco era bellissimo il primo, è bellissimo anche questo. Il suo mestiere lo sa fare molto bene. Ah, bene, ottimo. Lo sa fare molto molto bene. Lui ci aveva dato una serie di idee. Questa qua sembrava quella che centrasse l'obiettivo in modo diretto. In modo diretto, chiaramente. Insieme questa, questa cover, diciamo. Bene, bene, ok. Cosa dite? Sentiamo un pezzo dal disco che abbiamo scelto. Che, che pezzo abbiamo scelto, Gil, da scaletta? È la traccia 2. Cioè? Non Excuses. Ok, questa è una cosa importante perché io ho scritto nelle mie note che assomiglia al riff di un pezzo di Liguana, Iggy Pop. Provate a sentirlo bene, cari ascoltatori. Vediamo se è vero. Almeno l'inizio, poi le cose cambiano. Però all'inizio, secondo me, assomigliava a un riff di Iggy Pop. Sentiamolo. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 22:45 minuti a Blu Radio Veneto con noi The Roadless per presentare il suo loro ultimo album si dice Revolution o Revolution? Come Revolution va benissimo. Revolution va benissimo. Parliamo di questo pezzo, allora giustamente il vocalista mi ha detto sì, Iguana sì, ma con la band, Iguana, dubbiamente con la band, Iguana non solamente, Iggy Pop con la loro band, la band storica, i Stooges. Band storica e si è riformata recentemente, ha fatto un concerto recentemente, tu hai visto Iggy Pop, cosa ne pensi di Iggy Pop? Sì, li ho visti proprio con gli Stooges due volte, la prima volta all'Heineken Jammin' Festival. sono rimasto veramente sbalordito. Sbalordito dalla potenza, sì, incredibile che hanno. Dall'energia che ha ancora il buon vecchio hip hop. Io ricordo hip hop non soltanto con la band, ricordo nelle performance, nei dischi solisti che ha fatto, soprattutto la produzione di Bowie, Last for Life, qualche altro Passenger disco. Famoso Passenger, che poi ne hanno ripreso anche gli extra, e per quello, riprendendo gli extra, gli hanno tagliato il contratto, purtroppo. Era una bella versione, secondo me, molto bella, ma non l'hanno capita all'epoca. Passenger è un famoso pezzo, una ballatona, una bella ballata molto ritmica dell'iguana. Esatto. Quindi un pezzo durissimo anche questo, però non duro come il precedente, aveva dei chiaroscuri leggeri, tu però alla voce alla fine spaccavi, qua sì che sei hard rock alla fine, sì, sicuramente. Infatti non riuscivo proprio a trattenerti, sì, vai leggermente più, non riuscivo proprio a togliere tutto quello che, insomma, che era il tuo, e te l'hanno consentito gli altri, assolutamente, il nostro piccolo Axel Rose. Esatto, siete d'accordo voi, avete consentito che lui potesse esplodere la sua vena hard rockettara. Perfetto. A me sono piaciute anche le chitarre, un bel gioco di chitarre. No, non fai te, no? Perché no, qua in realtà non c'è una linea solista. Non c'è una linea. Ci sono degli arrangiamenti, sempre sull'acuto, come il discorso che dicevamo prima. Però è un'idea interessante, sempre dovuta al fatto del produttore oppure al fatto vostro? Cosa dici? Bah, un po' tutti e due in realtà, perché abbiamo deciso in questo disco qua di essere più diretti, magari lasciando meno fare spazio. Un bel muro di chitarre. Esatto, meno spazio da solo magari, perché non ci sono assoli poi così. No, esattamente, così. Così lunghi o così lasciati, proprio il solista, abbiamo cercato di togliere un più po'. Più di gruppo che da solo. Nessun chitarriero. Esatto. Nessun chitarriero. Lavoriamo più sugli arrangiamenti, quello sì. Bene, è una cosa importante, è interessante, è una evoluzione anche questa rispetto al disco precedente. Voi avete suonato anche in Piazza Bra, ragazzi. Capodanno. Come state? Una figata. molto bello. È bellissimo perché, vabbè, trovarsi davanti a 25.000 persone così alla prima uscita col cantante nuovo, che lui, cioè lui dice di no. Avevate dei dubbi su di lui? No, no, assolutamente neanche. Se la stava facendo tantissimo addosso. Non dico di no, è infatti, vero. Infatti è cominciato il concerto con Whiskey for Breakfast. E ci giriamo io e Loris e non vediamo Claudio, perché c'era l'intro. Certo. Lui è arrivato correndo, ha preso in mano il microfono, ha tirato un urlo e lui siamo là, e ho detto sì, ok, è arrivato. E adesso, a posto, adesso via, adesso via, andiamo. Grande. Sì, sì. Benissimo, benissimo. È una bella cosa anche quello, intervenire in questa maniera, Nick. Sì, l'ho visto come l'unico modo per riuscire a tagliare un attimo la tensione e a cercare a rompere. Infatti a trasmettere energia più che tenermela. Sì, sì, sono d'accordo con te. È un modo come un altro per rompere, per riportarsi, per entrare nella parte praticamente. Sì. 22:48, adesso entriamo nella parte suonando ancora, chiaramente. Qui dobbiamo sempre entrare nella parte suonando. Cosa, ragazzi, adesso? Adesso creiamo un po' di atmosfera. Suoniamo una canzone che parla di un posto bellissimo che c'è in Sardegna, fatto di dune bianche, e si intitola Back to the White Dunes. Ah, benissimo. Non vi mando il jingle perché prima mi siete partiti diretti. Vi lascio andare, ragazzi. There's a place that I've seen. You cannot imagine how beautiful it is. People need something that is special for them. Found those feelings in the moment of white dunes, a place that captures your heart. Ooh. Radio Veneto, SMS 346 2320 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Bella, bella, gran voce. Molto bella, sì, una bella ballada. Dobbiamo sottolineare una cosa, oltre all'insieme perfetto, le variazioni di Sir Flex. Perché? No, variazioni positive. Cosa vuoi? Perché non mica negativo. Mi è piaciuto. Hai colorito il pezzo in questo momento, qua davanti a me. L'hai colorito. Sai, si cerca sempre di fare quello che si ha in testa. Poi, insomma, se non è mica inquisitorio, assolutamente. No, assolutamente. No, beh, grazie. Allora, sì. Poi dopo, se l'ascoltatore riceve quello che anch'io provo, tanto meglio. Io potresti fare l'imbianchino. Ma a rogo, a rogo. Beh, ma anche voi siete bravi come muratori. Stanno giocando, vedi? No, scherzi a parte, il pezzo era molto bello, era una ballad. La voce di Nick sta bene anche in una ballad, l'ha messa in una certa maniera, e poi c'è Sir Flex e l'ha colorata, ripeto, con quei giri chitarristici acustici di notevole sviluppo. Grazie. Secondo me, io l'ho sentita a un metro da te, quindi l'idea è questa, la sensazione è questa. Gli ascoltatori sanno, sentono queste piace, robe. Piace, no? Piace. Quando un pezzo è bello, bisogna dirlo. Perché bene, no? Bene, anche se Bulldozer non parla, perché non parli? Non dici niente. Medita. Parla sociale stasera. È un saggio. Sto ascoltando, degustando veramente questa bella serata. Portate pazienza. No, adesso stiamo scherzando, però quando le cose musicali sono interessanti, bisogna dirle. E c'è da ricordare che in questo pezzo c'è il violino di Laura Masotto. Esattamente, esatto. Che dà impreziosissimo il pezzo. Sì. L'idea del violino è stata tua, Gianluca. Sì. L'avevo scritta, ho scritto la musica con l'idea proprio di avere degli strumenti acustici dentro. E c'è anche un po' di pad di Veronica. Esattamente. Di Veronica, infatti, è nata come pezzo acustico. L'abbiamo registrata comunque con chitarre elettriche anche. E acustico un po' mosso rispetto a. C'è un altro acustico dopo, di cui parleremo più tardi. Ascoltando vari mixaggi, abbiamo optato per un suono più acustico possibile. Infatti, abbiamo alzato molto l'acustica. Sì. Abbiamo lavorato un po' sullo strumento acustico perché secondo me rendeva molto di più. E questo posto della Sardegna che vi ha tanto ispirato? Questo posto della Sardegna è Villa Semius. Immaginavo. E lui era ubriaco. Villa Semius e Porto Pino sono due posti veramente meravigliosi che mi sono rimasti nel cuore. Ti hanno ispirato. Sì, beh, questa ballata ci stava veramente tantissimo perché quando in realtà a settembre, all'inizio di settembre, avevo detto di sì ai ragazzi, sì. E subito dopo sono andato in ferie con la mia ragazza. Sei stata là. Esatto, sì. E siamo stati lì, abbiamo fatto 11 giorni lì. E mi ricordo proprio che mentre stavo camminando sulle bianche colline di Portopino, ero al telefono con il signor Gianluca a parlare. Dobbiamo registrare. E allora l'ispirazione diciamo è volata. Tutto quanto si è connesso. Certamente, è una cosa molto importante. Dal vivo, la violinista non c'è? No. È solo stato un ospite. Non siamo ancora riusciti ad avere la fortuna di ospitarla in un concerto nostro. Sarebbe bellissimo. Magari gli lanciamo magari un radio acustico. Esatto. Sì, perché dobbiamo sottolineare ai caldi ascoltatori, una band rock, ci sono sempre le ballad, e le ballad sono cose fondamentali. Spesso e volentieri, mi insegni caro Nick, che tu vieni dall'hard, spesso e volentieri le band hard rock hanno delle ballate acustiche meravigliose nell'interno. Come è no? Una caratteristica essenziale della band. Come no? Facciamo, Metallica, facciamo ad esempio. Facciamo un esempio. The Stairway to Heaven delle Zeppelin. Beh, non è mica hard rock per questo. No, hard rock è il classico hard rock per eccellenza. Secondo me le Zeppelin non sono hard rock, sono solo le Zeppelin e basta. Ah, ok, è un mondo a parte. Non ci sono... A mio parere è uno di quelli che ha inventato hard rock. Si può darsi che tu abbia ragione. Mio parere. Tu abbia ragione. In ogni caso ci sono sempre le ballate di grande, sì. grande fascino, di grande importanza, ed è giusto che sia così. Benissimo, 22:57, sì, cosa facciamo? Sentiamo un altro pezzo da disco, cosa dici G, nella scaletta? Sì, è pronto, quando volete la traccia numero 8, White Life. La spieghiamo un momento stavolta. What If, dai. Caio, tutto tuo. What If, Final... Sì, no, la traccia numero 8 adesso sentiamo. Sì, What If. What If, sì. Esattamente. Mm. What If, What If, tra parentesi, Fighters or Slave, praticamente è... una canzone molto, molto energica. Sì, qua si divide in due momenti. Esatto, è molto, molto energica, diciamo. Mm. E il testo parla principalmente del fatto che bisogna a un certo punto scegliere se fare combattere, tra virgolette, ovviamente, o essere schiavi. E questo può essere associato alla nostra situazione sociale odierna, ma a tantissime altre situazioni personali, no? Che a un certo punto bisogna riuscire si arriva a un certo punto in cui bisogna prendere una scelta, ok? E ogni scelta comporta comunque delle situazioni e delle porte che si aprono e si chiudono. E il testo parla principalmente di questo. Certo, adesso lo sentiamo allora. Long SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Due belle puntate, Maurizio. Blue Time, Rock Wave, veramente serata particolare. Decisamente. L'hip hop, l'hard rock, rock classico è diverso. Possono essere, si possono accomunare, avvicinare. Beh, posso dire una cosa? Dimmi. Che è bellissimo stare qua. Ti ringrazio. Veramente bellissimo. È la prima volta che tu vieni qua, vero? Sì, infatti, è la prima volta e mi trovo perfettamente a mio agio. Si sta veramente molto bene. Grazie mille. Grazie, Nick. A proposito, adesso a proposito del tuo agio, sono le 23.02. Cosa c'è, Gila, alle 23.02? Alle 23.02 c'è, si fa una cosa, ragazzi. Si va su un'isola deserta, pochi vestiti, niente donne. Solo musica? È solo musica. Quanti? 3 o 5 CD? No, facciamo 3, sono tanti stasera. 3 CD. Vi portate 3 CD in quest'isola e quali? Quali sono? Una regola fondamentale, Nick, tu non lo sai, Gianluca lo sa, e anche Flash. E anche... Lo sa, e anche Bulldozer lo sa. Non si può copiare. Ok. Ognuno sceglie la propria scaletta e così è fissata. Ma guarda, non penso che ci sarà questa... Questa possibilità, perché, perché veniamo comunque tutti quanti da generi similari ma non uguali. Quindi Tu dici? Sì. Adesso io, cominciamo il gioco, vediamo. Comincio io. Sì, come volete. Ok, vai, io vado Nick, con... tocca a te. Allora, io vado con le Zeppelin 3. Vabbè, mi copi così però, no, no, cavoli, dai. Allora, perché hai scelto le Zeppelin 3, che dicono sia il disco più folk dei Led Zeppelin? Infatti, perché è quello che comunque li contraddistingue, no? Hanno fatto vedere di essere capaci di fare... un po' di tutto. Eh beh, certo. E di livello. No, questo grazie. Va bene lo stesso, grazie. Questo è sul 4, ma esatto, va bene lo stesso. Grazie, va bene. Grazie veramente. Va bene. Per il regalo. Dopo un altro album che mi ha segnato, diciamo, fortemente è Ten dei Pearl Jam. Ecco, quello è un album importante perché ha avuto successo con il tempo, esatto. Lentamente, progressivamente, non subito. Dobbiamo sottolineare una cosa, non so se sei d'accordo, Nick e tutti gli altri. Pearl Jam hanno questa caratteristica di cambiare sempre ad ogni disco. È non vero. Sono mai uguali, perché non sono grandi. È vero. Cambiano in continuazione, rinnovano, rivoluzionano in continuazione, a proposito del vostro nome, il vostro titolo del disco. Vanno sempre in avanti e questo è un dotto di merito, un grandissimo band. E il terzo, Bad Mother Finger dei Soundgarden. Ecco, un altro, questo sono piuttosto tosti, ma molto sì, bravi, molto tosti, piace. Una band tantissimo. Decisamente importante. Tocca al batterista. Vado io. Vai, vai. Allora, il mio primo album da portare in un'isola deserta sicuramente... Blues for the Red Sun dei Caius. Quindi ecco, andiamo... Caius è un gruppo che spesso e volentieri i batteristi citano. Sì. Come mai, caro batterista? Perché probabilmente che... io... Sì. Nick faceva così, cioè esatto, non beh, ci sono telecamere, però non c'è... potete capire, cari ascoltatori, esatto, cosa ha detto Nick. Oltre alla botta c'è anche l'atmosfera che comunque la batteria si riesce e non si riesce a rendere. Certo, sì. Quindi lo stoner comunque si riesce comunque a creare un ambiente desertico e anche psicadelico. Però non sono proprio molto famosi in Italia, sono da culto. No, infatti, cosa dici? Infatti, un po' ristretta, sì, come cerchia. Esatto, nell'underground, sono molto conosciuti. E tra l'altro sono ricomparsi l'anno scorso con un disco stupendi, esatto, stupendissimo. Numero 2, un qualcosa di Queens of the Stone Age. Adesso sono in classifica, esatto, da poco. Quindi, tempo, ecco. Perdo anche il concerto, tra l'altro. Vabbè, purtroppo, mannaggia, deve suonare. Implodi. Implodi. Il terzo album, il terzo album, Hardcore Superstar. Ma valla, di chi? Hardcore Superstar. Ah, non li conosco questi qua. Che sono un gruppo svedese. La Svezia mi è ancora leggermente lontana. Leggermente. Ti ha preso in contropiede. Non posso conoscere tutto. È la prima volta. Sicuramente io so che Gianluca li conosce. Assolutamente. Gianluca ci sta ascoltando. Gianluca, sicuramente. Ci stiamo aspettando. Con Gianluca dobbiamo sottolineare, caro G, che ad agosto faremo la rimpatriata di 3 ore di rock. Cavoli. Assolutamente a sponda libera. Via. E allora dovete mettere qualcosa di lui. Metteremo qualcosa di lui. Tocca al nostro Bulldozer. Ah no, il bassista. Vai Bulldozer. Siccome non voglio copiare, lascio loro, per favore. No, ma copia pure. No, no, ma io vado molto sul tranquillo, Dai, vai. Di che. Partiamo da Cowboy From Hell di Pantera. Molto tranquilli, sì. No, sì. Beh, infatti, musica proprio d'ascolto giornaliero. Esattamente d'ascolto. Dopo della classica Nilla Pizzi che ti dicevo l'altra volta. Esattamente. Dopo, sai, io sono un fan sfegattato dei Queen, quindi porto due album, A Night at the Opera e Innuendo. Benissimo. Molto tranquillo. Freddie Mercury, Docet. Ma certo. due secchi. Quindi hai già finito la tua selezione. Beh, certo. Sì, sì, io sono a posto così. Un po' di cattiveria e un po' di melodia sono a posto. Sintetico, lui è lui, veloce. Dai Gianluca. Beh, io da cultore dei Beatles non posso che non portare Sgt. Pepper's. Bene, hai fatto bene, cioè, la Bibbia del Rock. Il disco dei Beatles. Il disco dei Beatles, sì. Poi porterei il primo disco degli Arctic Monkeys. E come mai gli Arctic Monkeys? Perché mi piacciono molto, perché hanno una bella botta, sono diretti, schitarrate da ritmico. Sì. Dico, quindi... hanno leggermente cambiato. Sì, hanno cambiato molto, infatti porto il primo disco. Perché certo. È il migliore. Il migliore secondo tra varie, da cioè, quelli sì. che hanno pubblicato. Sì, sì. E poi Caio mi ha rubato Tende per Gem, Giulio mi ha rubato questo, Bombe ha rubato quell'altro. Quindi hai ancora 10 secondi. Quindi implodi. Beh, io ho citato Ten. Tu puoi prendere Rearview Mirror, ma che no, è ma no, il Greatest Hits. Ma no. No, questo non è mica tanto valido. Porterei Songs for a Death dei Queen of the Stone Age. È sempre i Queen of the Stone Age. Che, vabbè, che... allora dai. No, va bene, va bene. Hai scelto un altro disco, chiaramente. Sì, sì, ma lui ha detto qualcosa dei. Sì, lui ha detto lui in ha scelto la discografia. Qualsiasi cosa, esatto, può andare bene. Ma senti, non porti niente degli Strokes, sei proprio sicuro? Anche Angles degli Strokes. Bello. Beh, quel disco lì è molto bello. Anche se l'ultimo è molto particolare. È vero. Mi piace molto. È assolutamente particolare. Mi piace molto. Eccolo qua, tocca Loris. Tocca a me. Vedo ti che... chiamo Loris adesso. Sì, va bene. Sì, sì, meglio. Va benissimo, sir. Aborro. Vedo che aborro. I miei gusti nessuno li aborro. Calcola, quindi io i miei 3 CD. Ma c'è Petrosciani? Sono consentite le raccolte ufficiali? Bisogna vedere di quale musicista. Attenzione, Laura Pausini. No, i Queen. Mario Biondi. Greatest Hits, il primo, come dicevo prima, al Bomber, che è quello che mi ha avvicinato ai Queen, per cui. E lo riascolto sempre molto molto molto volentieri in ogni fase di cambiamento della vita. Per cui ci sta su un'isola deserta. Perfetto, Queen. Posso portarlo? Sì, va bene. Anche no. Poi, quell'altro. Facebook? No, non ho Facebook in un'isola deserta. Sì, no, ma con telecamera però. Vabbè. A fotocamera, telecamera, tutto. Ma non è un poi album. La seconda raccolta che tu vorresti portare? Secondo... Quella no, non è una raccolta. È Led Zeppelin, quella dove c'è Moby Dick. Aiutatemi. Il 2. Esatto, il 2 è quello lì che lo sto. Cioè... Ma qui dovrebbe parlare Bonzo, cioè il batterista praticamente. Bonzo. Che sono magrolino, io lo chiamiamo rispetto a Bonzo. Lo chiamiamo Scalzo noi. Dimmi. E no, poi Mario uno Biondi mi chiamano, di solito. Jimi Hendrix come chitarrista, insomma. Perfetto. Hai detto prima funky e secondo Jimi Hendrix faceva di tutto, Sì, lui sì, è però... il massimo, è solo Jimi Hendrix. Ha aperto una bella via sul funky, ecco. Sì, ha aperto comunque... di tutto lui, secondo esatto. me. Esatto. Bene. Ecco, questi tre amici. Questi tre hai scelto. Benissimo. E i tuoi, Maurizio? I miei non sai che non ma si non possono dire. Ma non vieni sull'isola non si possono dire. Dai, non si possono dire. Maurizio ne hanno infinità, ragazzi. Non sono solo il primo dei Rodless, il secondo dei Rodless. E il terzo quando verrà. Bravo. Il prossimo. Bravo. 23, ottima scelta. Dunque, 23.09, adesso suoniamo, dai, che cosa? Vai. Che cosa? Beh, la prossima canzone sempre dall'album Revolution, si intitola Purse. Ah, un altro pezzo molto bello. Qui mi sembra che ci sia, nell'originale c'è anche la signora Veronica Marchi, anche qua mi pare. Pad di. Sì. Dei pad di. Esattamente. Ci siete, ragazzi? Vi mando un jingle, siete pronti? Siamo pronti. Via. Shining. I just wanna be your man. I just wanna be your friend. I just wanna give everything that I got. I have promised you my soul. I have promised you my heart. I don't wanna give you pearls, just everything that I got. Listen, my sweetheart, sometimes not easy, but life is going on. Together I just wanna give everything that I got. I just promised you my soul. I have promised you my heart. I don't wanna give you birth, just everything that I got. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Vi assicuro che sentire suonare questo gruppo, per carità, come tanti altri gruppi, tanti altri artisti che passano in radio, Maurizio, è sempre qualcosa di emozionante. Sì, sono perfettamente d'accordo, perché c'è una caratteristica. La musica live, poi io sono nella fossa dei leoni, l'ho sempre detto tante volte, sembra una cosa per dire, ma non è vero. Quando uno è il centro di, mentre gli altri suonano, fa parte della band anche lui, secondo me. Entra proprio nella band stessa. E questo era un pezzo molto bello, molto orecchiabile. Secondo me poteva essere il singolo orecchiabile, non so se fosse un'idea vostra o sarà un'idea, Gianluca. Stiamo già lavorando in realtà su un nuovo singolo da lanciare. È una delle opzioni. È un'ottima opzione, secondo me. Sì. E si rallenta lentamente, cioè non molto, però si rallenta. È un ottimo compromesso. È un ottimo compromesso. Cosa dici, Nick? Dico che per me è un pezzo molto sentito. È molto molto sentito, perché è una dedica speciale a una persona importante. E inizialmente si era quasi pensato di usarlo come singolo. Poi ovviamente per anne questioni abbiamo deciso che ci voleva qualcosa di più di impatto. Sì, certamente. Più di impatto. Per me comunque è un pezzo, resta sempre un pezzo speciale, indipendentemente se sarà o non sarà un singolo. dobbiamo non so se ci siamo dimenticati, però su Fake c'era un video molto importante da citare, adesso possiamo citare. Abbiamo fatto il video del singolo che trovate su YouTube, scrivendo The Roadless Fake, sul nostro canale Facebook, sul nostro canale YouTube. Sta girando nelle TV minori al momento, nell'attesa di andare su quelle un po' più grandi. L'autore del video chi è? Michele Piazza. Michele Piazza. Grande Michele, è stato bravissimo, ci ha sopportato un giorno. Abbiamo fatto un giorno, abbiamo mosso il mondo perché abbiamo usato un albergo, le suite, infatti salutiamo l'Hotel Baretta con Bar Annesso. Sì. Poi, vabbè, tutte le varie comparse che abbiamo avuto, abbiamo cercato un sacco di ragazze. Perché purtroppo fanno audience, no? Quindi certo che fanno audience. Bisogna essere un po' imprenditori e mi ha detto spogliatevi. Si è spogliata una sola, però vabbè. L'immagine legata alla musica è importante, ragazzi. Assolutamente sì. Penso sia una delle cose fondamentali, perché visto che adesso di innovazione musicale si può parlare fino a un certo punto, perché quello che doveva essere scritto è stato scritto. Adesso si cerca comunque di differenziare o di proporre una nuova versione di quello che comunque è già è stato scritto. Tutto. Quindi diciamo l'immagine, gli show e tutto è veramente fondamentale per distinguersi. A proposito di show, con Loris parlavamo mentre il pezzo andava del discorso Verona e degli show da musica dal vivo, che è un po' difficile trovare, suonare dal vivo pezzi propri, non cover band. È sempre, ma dappertutto, Verona è un caso, non è un caso, è una cosa per tutta Italia, caro Loris. Meno male che non è solo Verona, perché le cover band spopolano purtroppo ovunque, ovunque, ma anche le persone che vanno ad ascoltare le cover band, insomma, sono sempre molte. Secondo me perché è meno impegnativo andare ad ascoltare una tribute band. Sì, perché si mangia un panino, si beve una birra e si sente la cover band. O forse perché manca la cultura. O anche quello, sì. Soprattutto quella, probabilmente. O mancano i panini quando ci sono quelli che fanno le... Oppure la birra buona, forse. Lui è sempre la battuta pronta. A Verona stanno cercando i paninari. Se volete prendere Loris, è qua pronto. Tu sei quello bastonato della compagnia, ce n'è sempre uno. Gli vogliamo bene. Perché ho una forte corazza e allora non mi fa niente, in realtà. A proposito, prima della domanda di prima, Gianluca, gli hardcore sì, li conosce, però non gli entusiasma tanto. Bene, peccato, perché anche questo me lo aspettavo. Quindi potrebbe implodere anche lui. No, sto scherzando. No, a proposito di questo, mi diceva il batterista non può partecipare alla Queens of Stone Age. Per qual motivo? Tu non sei molto soddisfatto della perdita del concerto? La gnocca, non è quello. Beh, c'è anche quello, però in primis è la terza volta che vengono in Italia è la terza volta che purtroppo li perdo e arrivo sempre all'ultimo a sapere le cose. A me è successo per quattro volte di fila con Hyper Jam. Il tuo cantante ha l'amorosa, è perché io ho ceduto il mio biglietto a lei. Bravo furbo. le ragazze le band rock non vanno d'accordo stassera, mi pare. No, assolutamente. Giochiamo tantissimo su queste cose. Assolutamente, sì. Stiamo scherzando, chiaramente. Siamo cinque dementi, in realtà. Esatto. In ogni caso, adesso c'è questa bella predominanza di gruppi rock che vengono suonati in Italia, una cosa positiva, al di là che abbiamo detto che in Italia i gruppi che fanno cose proprie non sono, cioè, purtroppo è per il gruppo italiano andare all'estero il problema. Perché secondo te? Guarda, adesso ti dico, secondo me gli italiani sono un po' come si dice, non fanno lo scambio di date. Cioè ognuno guarda il suo, guarda di fare il meglio che può lui, che però non si rende conto che quello che hai non ti porta da un'altra parte. Cioè, a meno che proprio non paghi o non ti evolvi in quella maniera. Noi per esempio adesso abbiamo, grazie ad Alessio Garavello, quando siamo andati su a Londra abbiamo ospitato loro per le prime due date del disco nei due locali dove siamo andati a suonare, e adesso ci stanno scambiando le date. Poi stiamo mettendo in piedi un tour un po' lontano che non diciamo dove, perché meglio di no. Scaramanzia. In realtà sono due posti lontani e sarebbe bello. Ma secondo me, parlavamo sempre con Loris prima, la vostra musica è molto adatta a paesi come la Germania, assolutamente, o gli Stati Uniti. Esatto. Gli Stati Uniti è un po' distante, però la Germania non è tanto distante. No, infatti, ma se posso dire la mia sul fatto del movimento musicale italiano e della difficoltà che c'è a portare all'estero, La colpa, a mio avviso, è delle radio che non fanno quello che fate voi. Cioè, in che senso, Nick? Delle major. Perché le major sono quelle che comandano comunque. Possiamo dire che la televisione ha distrutto tutto. Assolutamente. Ha distrutto tipo i talent show, tutte quelle cose là, hanno distrutto. Video kills the radio stars. Però video kill the radio stars, però la radio non è stata uccisa assolutamente. La radio no, purtroppo, purtroppo le major per i loro N discorsi, ok, economici, non hanno voglia di investire sui giovani. Assolutamente, decidono loro quello che va di moda. Esattamente, ma sempre il catalogo però. Se questo deve essere il tormentone musicale, è vero. E una delle major decide, allora tutti sanno. No, che quello deve essere il tuo mentore musicale. Vedi il filippino o il coreano, scusa, quel similare, esatto. Cosa che Giulio è stato bandito dall'Italia, tra l'altro ha deliziato il volo Ryanair per Londra con un balletto del coreano, tra l'altro lo dico qua in diretta, ho il poster, la gigantografia è coreano, stupenda, e ogni mattina mi metto a fare il balletto, certo, mi pare giusto che sia giusto. Così. Comunque poi credo anche che la cultura dell'italiano in sé sia proprio bassa, perché parlando con inglesi parlando di musica, comunque dici, oh, hai sentito questo disco qua, il nuovo disco di X? Sì. E dice, ah, non l'ho ancora ascoltato. Beh, aspetta che vado a casa e lo scarico da iTunes. Invece noi, dai che lo scarico da Torrent, da Emule, cioè... È ben diverso il discorso. Stiamo comunque anche ammazzando le band emergenti, perché certo, nel senso... In questo non modo, è, sì. Noi abbiamo il disco su iTunes a 4,99, nel senso è più il costo nostro di lasciarlo lì che non il guadagno che ne riceviamo. Però... Ma ritornando al discorso che facevamo con Loris, il discorso delle cover band, mi hanno detto spesso e volentieri dei ragazzi sono venuti a suonare qua tante band, per esempio in Germania ci sono dei locali, assolutamente locali, che non amano le cover band, vogliono esclusivamente i pezzi dal vivo, inediti. E quello è importante, come si faceva una volta a Folk Music, in altri locali. Si faceva pezzi inediti. Purtroppo invece in Italia c'è la mania delle cover band, delle tribute band. Fanno incasso, hai capito? Lo so, fanno incasso, vero? È che non al Folk Studio a Roma chi doveva suonare solamente chi aveva un brano inedito e basta. Infatti, ma adesso ci sono un sacco di locali, parlo di che ne so, Latte Più, locali comunque grossi che sono discoteche della musica rock, che tengono migliaia di persone, che adesso purtroppo nella loro programmazione hanno tantissime cover band o tribute band. Perché purtroppo devono sopravvivere. Devono sopravvivere. Quello è il discorso. Infatti è proprio un fatto di scarsa educazione. Esatto. 23-24 minuti, facciamo un'altra pausa. E facciamo musicale, un'altra pausa, vai. Live, ragazzi, o CD? Live. Facciamo un live, dai, facciamo un live. Siete pronti? Ok, facciamo il singolo allora, dai. Lo riproponiamo in versione acustica. This song is dedicated to all the people who have chosen to be surrounded by unnecessary material things. Being superficial is not the answer. It's the way to be a slave. Now it's time for a change. And start to rock. Have happened here. Everybody's going crazy. They will do anything to be heard. Limousine are to be free on a span on your next bill. Are you sure that you will need all this shit that you kill dreams? You will realize your life is fake. And be surrounded by those is not the way to gain. So wake up, you can have more. Yeah, and how does it feel to be in real company? So what's the deal? Get away from them. You realize your life is fake. And be surrounded by dolls is not the way to gain. So wake up, you can more. Oh yeah. You can have more. You can have more. Oh no no, you can have more. You can have more. You can have more. Oh yeah, you can have more. You can have more. You can have more. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 23:28, ancora una mezz'oretta circa con i The Rodless. Sì, sì, purtroppo il tempo passa. Il tempo passa. Giulio Marco Lungo. Ok. Claudio, per primo te l'ho detto sto giro. Claudio Nicoletti, Gianluca Aldeghieri, io, Loris Ruffo e Bomber Manuel Stoppele con noi. Ok, abbiamo sentito la versione live del singolo. A me è piaciuta molto la versione acustica. Acustica, per modo di dire, chiaramente. Il muro di chitarre non era elettrico, era un muro di chitarre acustiche. Però acustica agitata. Acustica agitata. Posso dire, tra Loris e Gianluca, c'è stato un momento in cui giocavate con il blues. Poi il blues si è un po' perso. Però se giocavate con il blues nel senso positivo del termine. Beh, cosa dici? Quale pezzo? No, questo qua, in questo no, momento. Quale momento del pezzo? Loris, siamo nel 2013, siamo a luglio, Padova. Sì, al momento, cioè prima dell'allargamento del riff. All'inizio proprio giocavate con il blues, giocavate. Secondo me è bello e positivo. Guarda, se ti dico quando è nato questo pezzo qua, mi prendi per scemo. Dimmi. Tu qua è stato il primo primo pezzo in assoluto. Dimmi. Fatto dai Rodless, Gianluca e Loris. Ah, in sala, il primo ancora prima di Whiskey for Breakfast. Sì, quindi due scemi praticamente. C'era questo riff. Quindi due scemi, cioè. Sì. No, c'era questo riff che avevo in cantiere ancora in quel periodo lì. Poi facciamo un disco nuovo? Sì, ok. Tiriamo fuori qualcosa. Vabbè. Guardiamo nell'hard disk cosa abbiamo. Ed è venuto fuori questa qua. Quindi l'avete lasciato per un po' di tempo fermo? No, no, quasi 5 anni. L'hanno riesumata. Grazie a te. Grazie a te. Sì, sì, no, sì. Non era proprio così comunque. No, vabbè. Era molto più lento. Il giro di accordi era quello. Poi la carica, l'energia del tempo che passa, dei live che facciamo. Poi è arrivato il bomber e ha detto no, Butei, aspetta un attimo, questo qua bisogna farlo così. Ecco, perfetto. Ha deciso il bomber, mi pare giusto che sia così. A proposito, abbiamo parlato dei live. Live, quanta energia mettete? Adesso è arrivato Nick, siamo d'accordo. Ma il primo pezzo della scaletta qual è nel live? No Excuses. Ah. Di solito entriamo con riff hip-hop bello... Hip-hop docet allora, secondo esatto, me. Esatto, esatto, esatto. quello entra bene. Qualcuno ha scritto un po' vintage, siete d'accordo con questo termine? Ne scrivono così tanti in realtà. No, nel senso positivo, mica negativo. Sì, sì, sì, no, assolutamente. Quindi ricorda leggermente il passato, ma un passato bello. Passato, sì, non bisogna mai dimenticare. No, il passato non bisogna mai dimenticarlo, assolutamente. Anzi, si può sempre attingere. È vero, si può attingere, però non copiare. No. Attingere è una cosa, copiare è un'altra. Purtroppo succede spesso e volentieri il contrario, si copia. Una volta si copiava spesso, perché una volta si facevano le cosiddette cover, sì, però le cose sono cambiate, giustamente, si attinge. Cioè c'è qualche collegamento, qualche idea che poi si sviluppa. Come copia basta pensare solamente a LA Grange, degli ZZ Top, quel giro lì, quanti artisti l'hanno ripreso. Sì, l'hanno ripreso, possiamo dire l'hanno ripreso, dai, assolutamente. Anche il buon George Harrison da My Sweet Lord aveva copiato Easy Fine, però lui aveva sempre detto, è un giro che avevo sentito, cose che possono capitare, un giro che ti entra in mente, non sai di chi sia, lo prendi, lo sviluppi e fai... Sì, infatti quando scriviamo qualcosa di nuovo, ogni tanto ci fermiamo e ho detto, no ragazzi, questo è plagio, fermi. Non è plagio, c'è una regola precisa che basta, determinati... Sì, sì, sono 8 battute. Esattamente, mi insegna Luca, 8 battute. 8 battute. Ma sono cose che vanno e vengono, la musica, le note sono 7 purtroppo, e quindi... Dimmi. 12, scusa. 12. Va bene. Ok. 23:32. Adesso ci riposiamo un secondo perché l'energia acustica è stata veramente notevole. Sentiamo un pezzo da scaletta. Non so che cosa ci sia adesso. No One. No One. No One. Ok, lo sentiamo. So simple and kind, with a pocket full of dreams. Where are you now? Everybody needs a thing to be proud of. Life. Blue Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Rockway Live ancora qui con voi, carissimi ascoltatori, ancora per più di 20 minuti, Maurizio. Sì, all'incirca verso mezzanotte, ci stiamo avvicinando alla mezzanotte, però questo non vuol dire che abbiamo finito, anzi abbiamo ancora 20 minuti belli abbondanti. Parlando di questo pezzo, parlavamo con i ragazzi mentre il pezzo andava, è molto da FM americane per determinati momenti, dopo no, però all'inizio sì, ci stava molto bene. È una cosa interessante perché i mercati ci possono sempre aprire, non si sa mai nella vita cosa bolle in pentola. È un pezzo accattivante. Pensavamo di provare anche comunque a mandare il pezzo negli Stati Uniti, perché comunque secondo me questo è un pezzo ottimo per questa cosa. È il sogno nostro, insomma, California, Los Angeles, sarebbe bellissimo. Queste grandi strade, queste grandi estensioni. Sì. Potrebbe andare benissimo come colonna sonora, questi esatto, passaggi, questi esatto, lunghi percorsi da fare. Sarebbe bellissimo, ma noi lavoreremo per questo. Ma si può lavorare. Sì, siamo giovani. L'idea di questo pezzo, Gianluca, come te è nata? No, questo pezzo qua è un riff di Loris. Sì, sì, è un riff di Loris della sua cantina. Perché giustamente si nasce in cantina, si fa in mansarda. O in garage. Sì, una volta si usava il garage, adesso c'è la mansarda, ma va bene lo stesso. No, ma proprio da me, o si va in cantina o si va in mansarda. Se venite da me c'è la piscina, vero? Tranquillo. Perfetto. È sempre diverso, vabbè, giustamente. Il bassista deve essere così. Dimmi. No, dico, i pezzi si scrivono o giù in cantina o su in mansarda. E dopo questo benissimo. Praticamente dove è stato scritto? Non mi ricordo. Perfetto. Sai che eravamo in piscina di festa allora. No, il caso è un bel pezzo, cioè bel pezzo nella prospettiva, come ha detto Gianluca. No, fatalità, questo pezzo qua, tra l'altro, è stato l'ultimo del disco scritto ancora con Anche se la scaletta non è l'ultimo, però. No, non è l'ultimo, ma noi siamo fantastici nel scrivere il pezzo tipo 2 giorni prima di andare in studio. Sempre fatto, quindi sempre all'ultimo momento. Sì, sì, Lucky è stato scritto un mese prima di entrare in studio. Questo qua penso 3 settimane prima. Se proprio. Ma siete, quando scrivete così poco tempo prima di entrare in studio, quando entrate in studio siete già sicuri tot? Sì, sì. Assolutamente. Sì. Logicamente dopo in studio si lavora sugli arrangiamenti, però sono dell'idea che quando un pezzo in sala prove o in garage o in piscina, insomma dove siamo, viene fuori subito, funziona, perché subito prende con la band e dopo sicuramente funziona dopo. È logico che gli arrangiamenti vengono fatti. Ma di solito in fase in studio, scusami, è buona la prima o quasi buona la prima? Quasi buona la prima, logicamente che ci sono degli aggiustamenti, cioè ci sono delle cose da aggiustare, da raccogliere, giri nuovi che possono arrivare per arrotondare, colorare il pezzo, però certo. Dimmi. Beh, scusa, no, ricordo, perché forse se lo sono dimenticati, ma questa abbiamo finito di scriverla in studio. Ah, perfetto, quindi è l'ultimo secondo. Sì. Perfetto. È vero o no? Si è ricordato, Lori, si è ricordato, attenzione. Abbiamo fatto l'ultima parte dal ponte al finale, abbiamo un po' giocata in studio, sicuro sì. Vi porto i saluti di Gianluca. Tenaremia in letto adesso, era. Ci mancava. No, prosegue fino a mezzanotte anche lui, chiaramente. Ciao Gianluca, ciao. Ciao. A proposito di una cosa fondamentale, se uno vuole acquistare il vostro disco, come deve fare, Gianluca? Allora, ai concerti, fondamentale ai concerti, perché lo trovate fisico. E quella è una cosa molto bella, Con il fisico del Bomber. E basta, di solo quello, così spingi la gente a venire ai nostri concerti. Esatto, fisico, vestiti però. Poi vabbè, su iTunes a 4,99 o 4,90, comunque super, però comunque digitale, meglio fisico, no? Poi su Amazon, sempre digitale e anche fisico, su parecchi comunque store multimediali, e continuo a ripetere ai concerti. Che ai concerti, quali sono i concerti, care band? Quali sono i concerti? Le date, le avete? Andiamo a sé. Non li ricordate. Abbiamo la settimana prossima, siamo alla Pergolas, venerdì. Dov'è la Pergolas? La Pergola. Sì, è una località, è vicino a Monteforte. Cioè vicino a Verona? Piena zona mare. Piena zona prealpina. Poi siamo a Bassano mercoledì. in piazza a Bassano. Bene, sì, mercoledì 10. Mercoledì sera. Beh, in realtà ne avremo anche uno prima della settimana prossima, però siccome non sappiamo niente, non si può dire, non lo diciamo, niente, però sta sicuro che se sappiamo qualcosa ti diremo tutto. Bene, no, che perché magari ci vediamo lì. Ah, può darsi. Ecco. Lo troviamo nel sito in ogni caso. Esatto. Sì. No, non lo troviamo nel sito. Forse. Beh, potete forse, dire il sito, però, quello sì. Sì, sì, beh, The Roadless su Facebook. Adesso stiamo lavorando sul sito ufficiale. Work in progress. Esatto, work in progress. Sempre di Andrea Bettega. Sempre di Andrea Bettega, Holy Drama. E poi prossime date. Ah, sì, Ferragosto. Cioè, doppia che non può mancare. Siamo al pomeriggio alle Terme di Giunone. Super elettrico, bellissimo, ci divertiamo tantissimo. L'ingresso non costa neanche tanto, insomma, sono 13 euro, dai, cioè, andare in piscina. Può andare. Un parco gigante. E alla sera al Jack the Ripper, il locale storico di Verona, insomma, per la musica rock dal vivo inedito. E poi ne abbiamo fino a ottobre. Quindi avete sempre da sì, suonare in giro. Sì, sì, sì. Sì, fortunatamente ne abbiamo, insomma. Bene, questa è cosa molto positiva. E a Rimini il 24 luglio. Giusto? Sì. Bene. In ogni caso le date le possiamo trovare in... sul sito, perfetto. Anche su quello di Blu Radio Veneto. Anche su quello di Blu, perfetto. Ma prima del sito lo trovate sulla pagina Facebook, perché il sito non è ancora pronto. Esatto. O sul profilo di Loris Flex Ruffo. Meglio, sì. Benissimo. Abbiamo stabilito la nostra tutto, segretaria. Sì, sì, sì. A borro. 23:42. Adesso abbiamo sentito fra le meandri, ho capito. Facciamo la cover dei Foo Fighters. Che cosa dei Foo Fighters? The Pretender. Ok, sentiamola allora. Keep you in the dark, you know that you're pretend. Marching in, oh yeah. That needs you really deep. Secret Santa's keep on never ready. Are you ready? I'm finished making sense. Completely at least at home. Ooh. What if I say am I like the others? What if I say am I just another one of your face? Could I pretend that? What if I say I'll never surrender? What if I say am I like the others? What if I say am I just another one of your face? Could I pretend that? What if I say I'll never surrender? Keep doing the dark. You should know that you're face. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Possiamo dire una cosa, questo era un pezzo molto difficile da fare, molto difficile perché c'erano delle ripartenze, delle fermate, delle ripartenze. Nick e tutta la band sono stati molto bravi, non era un pezzo semplice e in versione acustica veramente ok, secondo me. Siamo stati molto molto incisivi. Grazie, al 100%. Perché i Foo Fighters? Nirvana docet o Nirvana non docet? Nirvana non docet, direi io. Direi perché sono chiaramente gli ascoltatori lo sanno, Foo Fighters è una cioè all'inizio erano tutti nel nucleo Nirvana, poi le cose sono cambiate, è morto Kurt Cobain, ognuno ha preso la propria strada e chi ha formato i Foo Fighters, un gruppo di grandissimo successo, ma perché Foo Fighters? Perché amati i Foo Fighters? Perché amo i Foo Fighters? Perché sono un... Allora, io amo i Foo Fighters perché sono un ottimo compromesso tra l'alternative rock, il classic rock e l'hard rock. Sono d'accordo con te, c'è un po' di tutto dentro. Sì, e poi stimo molto Dave Grohl come... Che è riuscito a costruirsi una propria identità. Perché si rischiava comunque di rimanere schiacciati sotto il peso di Kurt Cobain. Esattamente, dall'eredità sua, è vero, esatto. Sono perfettamente d'accordo con te. Ecco, è lui. Io adoro questo pezzo, per esempio. Sì. Non so cosa vuol dire no dodget, però. Sono mitici. Adesso userà questo termine per i prossimi 10 giorni, sicuro. Grande G. È sempre stato un gruppo seminale, c'è poco da fare. No, pochi dischi, ma quelli. Pochi ma giusti. Sì, Nevermind, al di sopra di tutto, secondo me. Dobbiamo dire una cosa, ricordare i musicisti che li avevamo già citati, però li citavo un'altra volta, che avevano partecipato al disco Al di là di voi, praticamente. Al di là di noi. Luca Tacconi, che è il fonico della Sotto il Mare Recording Studio, che è bravissimo, che fenomenale. Ha fatto un grande lavoro. Un po' troppo magro, però. Poi. Perché loro non lo conoscono. Vabbè, comunque. Lo conosci te, però. Poi, vabbè, Veronica Marchi. Sì, che ha dato una mano. Ha dato una mano con i pad di tastiera, certo. Qualcosa di pianoforte. Laura Masotto, violino. Back to the White Dunes. Andrea Martongelli, che è stato il nostro produttore, il nostro mentore, che ha dato una svolta alla band. Sì, assolutamente. Infatti, grazie tantissimo a lui. E Alessio Caravello, gli Home hanno partecipato nel disco in un pezzo che purtroppo non siamo riusciti a mettere. Non importa. Beh, possiamo ancora a tempo se. Non siamo riusciti a metterlo proprio. Scusate, nel disco. Sì, non siete riusciti a metterlo nella scaletta. Esatto. Poi, ha partecipato Tommaso Canazza, Rock Hour, ha partecipato Federico Grella di Artisan Studio. E salutiamo anche Bonato. David Bonato, è importantissimo. Scusate, Sara Bailey, The Big Boss. David Bonato, che ha creduto in voi fermamente. tantissimo. Sara Bailey, che è la segretaria dello studio di Londra, che è quella che ha fatto l'intro di Fake. Bisogna svelare che il bomber ha trovato nella segretaria che ha fatto una manza da intro musicalmente parlando, sempre musicalmente. Sì, musicalmente parlando, però c'ha delle parti che sono spettacolari. Dove ti è venuto fuori questa? Una manza da mi è venuto in mente una cosa sporca. Voleva dire una vocalist, lui voleva. Sì, però una vocalist. Era bravissima con la voce. Avevo famissima in realtà. era... conoscendo Gianluca voleva proprio dire quello. Sì, esattamente. Ok. Benissimo, 23:51, abbiamo tempo circa 10 minuti. Cosa volete fare in questi due? Sentiamo 9... un pezzo da scaletta e poi facciamo un pezzo da scaletta. Live. Esattamente. Sì, dai, va bene, facciamo così. Che pezzo da scaletta avete scelto? Nevermind di Nirvana. No, no, assolutamente no. How many times? Yes. Ok, sentiamolo allora. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 5 minuti alle 24, Maurizio. No, non abbiamo ancora finito. Non abbiamo ancora finito. Riepiloghiamo il pezzo che abbiamo sentito adesso. Come si chiamava? Il titolo del pezzo. How many times? Ecco, perfetto. How many times? Benissimo. Importante, una cosa fondamentale adesso Gianluca che ha messo tutto quanto ci dirà le date della band. Allora, dopodomani lo trovate su Facebook. Un locale ragazzi che ve lo ho. Ok, poi mercoledì prossimo a Bassano in piazza più la piazza più grande che c'è a Bassano, lì siamo noi con le piazza più importante. Poi il 12 alla Pergola alla festa di mezza estate. Montechia di Crosana. Montechia di Crosana. 24 a Rimini, all'House of Rock. Quindi è andato a Rimini in trasferta allora. Ci andiamo al mare, già che ci siamo. E suonate. Esatto. Ad agosto, il 3, siamo alla Notte Bianca di Tregnago. Bene. Il 15 di agosto, che è Ferragosto, Termine di Giunone più Jack the Ripper. Segnatevela. Dov'è Termine di Giunone? Cagliero e Roncac sono a tipo 7 km, però giornatona, dovete venire per forza. Mm. 30 o 31 agosto, V-Rec Festival. Mm. Festival della nostra etichetta. Esatto. Bene. Salutando ancora David Bonato. Certo. Poi abbiamo il 21 e il 28 settembre. Il 21 settembre siamo al Barbiturrici ad Arzignano. Mm. E il 28 settembre invece ci esibiremo una mezz'oretta ad un festival che fanno ad Arzignano, sulle colline di Arzignano, che è un memorial per due ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato in un incidente stradale e che ogni anno vengono ricordati con tre giorni di musica. Bello, bello, una cosa molto bella questa. Sì. Ritornando al pezzo che abbiamo sentito, un critico ha scritto è molto vicino ai Green Day, siete d'accordo? Io direi più Strokes. Volevo dire una cosa. Io non sono d'accordo. Non sei d'accordo, perfetto. Volevo dire una cosa. Dimmi. Perché non è stata detta. Aborro. Nel disco Jim the Special, che è la sì, land scaletta dell'album, la ghost track, è stata track dedicata a un'associazione che si chiama Valemur, che lavora con ragazzi con sindrome di Down affetti a sindrome. E noi ci facciamo insomma un po' promoter nel far conoscere questa associazione, che lavora veramente benissimo con dei ragazzi che hanno veramente bisogno di una mano, ma proprio tantissimo. Fai bene a dirlo questo, okay. Molto importante. Benissimo, adesso sono le 23.57, abbiamo finito, però non abbiamo finito perché io voglio sentire il pezzo che io ed Alberto abbiamo messo in scaletta per un mese consecutivo. Una grande ballata, assolutamente bella, interessante e ancora bella perché è fatta in acustico stasera. Ti dedichiamo ovviamente. Ti ringrazio, dedichiamo tutta la radio. A tutta la radio. Chi ci sta ascoltando e grazie adesso. Mille, e grazie mille per averci ospitati questa sera, è stato veramente bellissimo. Grazie a voi per queste due ore di musica rock e non soltanto rock. Abbiamo discusso, parlato e abbiamo ascoltato e abbiamo conosciuto la seconda faccia dei Roadless. Li ricordiamo uno a uno, certo. Ringraziamo uno a uno. Grazie a Claudio Nicoletti alla voce. Grazie. Ciao Gianluca Deghieri. Yes. Chitarra ritmica. Loris Ruffo, la chitarra. Aborrissimo. Bomber Manuel Stopper. Bella, li ha messo per ultimo, vediamo se ce la fa. Attenzione. Giulio Marco Lungo. Giustissimo, stappo la bottiglia. Grazie ragazzi, un grandissimo abbraccio da tutto Blu Radio, tutta Blu Radio Veneto. Stanno aperta. Domani sera con Agostino avremo una cover band, stavolta una cover band però un po' particolare, fa sentire i pezzi di Jim Croce, e in Italia che fa i pezzi di Jim Croce sono molto pochi, quasi nessuno direi. Una cover band di una band, cioè una ragazza è la leader della band praticamente. In ogni caso stasera concludiamo con cosa ragazzi? Con il singolo per me, un pezzo meraviglioso. Our World. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie buonanotte a voi, ciao grazie. Notte. Stars tonight. For years now, I hope you are feeling fine. Listening to the same old song, taking deeper breaths, hearing clocks ticking time. I calculate the pieces of our world and be a better man, yeah. Do you remember when there were sleepless nights, games and love making love? Yeah. felt so numb. Missing parts of a life, not mine anymore. I wish I could collect the pieces of our world and be a better man. Oh, oh, oh, oh yeah. I just wanna be Mary Jo tonight. Just Mary Jo. Good night, everybody.